in primo piano. In questo lunedì 6 dicembre è certamente la cronaca con dei terribili fatti che si sono un po' accumulati in questi giorni, in questa domenica, e che prende le prime pagine dei giornali. Beh, la vicenda di Yara Gambirasio, l'avete sentito, l'arresto, il fermo di un marocchino che nega tutto, e ci sarebbero due complici italiani. Praticamente unanime l'apertura dei quotidiani, il Corriere, Yara, i sospettati sono tre. Per Repubblica, Yara è stata uccisa, immigrato in cella, non sono l'assassino. La Stampa, Yara uccisa, si cerca il corpo. Il Messaggero, Yara, una telefonata accusa il giovane. Per l'Unità, orrore, paura, razzismo. C'è un uomo che sventola il manifesto Marocchini fuori da Bergamo. Per il Giorno, l'inferno di Yara. Avete visto? Questo è il tema un po' di apertura dei vari giornali. Io cito l'apertura del Sole 24 Ore perché, come avete sentito anche nel GR, è uscito il rapporto annuale sulla qualità della vita 2010, che poi certo andremo a vedere più avanti in rassegna stampa. Bolzano e Trento sono le province vincitrici. Qualità della vita. Bolzano e Trento unite in vetta. Queste le due province dove si vive meglio secondo i parametri della classifica del Sole 24 Ore. Le segnalazioni da cui voglio partire, la prima è dal Giornale, pagina 13, Gian Michele Sin, il pozzo senza fondo delle ambasciate europee. Quando si leggono questi articoli, ah, ci si mette già di buon umore di prima mattina. Ben 136 sedi diplomatiche dell'Unione Europea sono disseminate in tutto il mondo, anche in paesi esotici e poco strategici come Tonga o Barbados, o addirittura il peggio però sta a Bruxelles, cioè c'è una rappresentanza europea del Belgio. Ma come? Cioè, c'è la sede dell'Unione Europea a Bruxelles, ma non nella sede dell'Unione Europea, ma a 200 metri dalla sede dell'Unione Europea a Bruxelles c'è la rappresentanza dell'Unione Europea in Belgio, in un altro edificio, a 200 metri di distanza. Gian Michele Sin racconta questo sperpero di 3 miliardi di euro, sperpero, se lo volete vedere come uno sperpero. Il nocciolo della questione è che ci sono le rappresentanze dell'Unione Europea in tutto il mondo. Sono 136 ambasciatori che guadagnano come personale dai 150.000 fino ai 221.000 euro l'anno, con 12/14. Avete capito bene, 12/14 settimane di ferie all'anno, 8.000 funzionari sparsi per il mondo, alcuni anche in paesi dove sinceramente la rappresentanza dell'Unione Europea magari non è così strettamente e diplomaticamente necessaria. Per esempio in Papua Nuova Guinea ci sono 23 funzionari dell'Unione Europea, 45 stanno nelle Barbados, alcuni nelle isole Fiji, 35 tra diplomatici, funzionari e impiegati locali. C'è anche in questa lotteria dei fortunati, racconta Gian Michele Sin, un italiano, il diplomatico europeo Alessandro Mariani, che guida la squadra di 18 funzionari europei, di cui 3 autisti alloggiati in prestigiosa residenza, dove? Alle Mauritius, perché è la rappresentante dell'Unione Europea alle Mauritius. Il pozzo senza fondo delle ambasciate europee, questo è l'articolo che vi segnalo a pagina 13 del Giornale per iniziare la settimana con un po' di allegria. E poi una segnalazione che troviamo sia sul Corriere della Sera e sia sempre sul Giornale. Si avvicina Natale e ieri l'Associazione Italiana Difesa di Animali e Ambiente ha lanciato questo allarme. Per la verità viene lanciato tutti gli anni, quest'anno però ancora di più, in maniera più forte, a Natale. Non comprate cuccioli di cane, soprattutto per i bambini, come regalo di Natale. Il risultato è che 4 su 10, il 40%, vengono abbandonati nei primi 3 mesi. L'appello è degli animalisti, piuttosto adottate nei canili, i cani senza padrone. Peraltro quelli che adottate spesso vengono da tratte da paesi dell'est, molti si ammalano subito, il 40% appunto vengono abbandonati, 4 su 10 nei primi mesi. Questo anche per il Giornale Oscar Grazioli. Fate un regalo agli animali, non regalateli per Natale, specialmente ai bambini. L'avvertimento di questa associazione, appunto, per la difesa degli animali: il 40% dei cani che vengono dati come pacco dono per le feste viene subito dopo abbandonato per strada. Peraltro, sapete, no? Spesso c'è questo normale atteggiamento da parte dei bambini di trattarli come dei peluche, e poi quando si stancano ovviamente li abbandonano, o meglio se ne stancano e dicono mi sono rotto, e però non sono dei peluche. Allora ecco l'allarme lanciato sia su Corriere che su Giornale. A pagina 29 del Corriere, a pagina 20 del Giornale trovate questa notizia. Manca una settimana al voto di fiducia, il 14 dicembre, e la politica, beh, la politica si anima ieri con Berlusconi, che è intervenuto a una convention del Popolo della Libertà al telefono. Ha detto: io sono una star, tutti vogliono fare una foto con me perché sono un tycoon, solo io posso guidare l'Italia in un frangente così difficile. Però Berlusconi, questa è, diciamo, la novità che viene colta un po' da tutti, è che per la prima volta ha parlato esplicitamente anche di quando lascerà il passo, di quando cederà il posto. Sono assolutamente consapevole che ho una certa età e dovrò lasciare prima o poi, ma passerò il testimone quando avrò terminato il programma, e comunque mai a maneggioni della vecchia politica che hanno a cuore solo le loro ambizioni personali. Questo ha detto Berlusconi, e cioè per la prima volta ha parlato di quando cederà il testimone, ma non ai maneggioni. Questo è il termine che trovate maggiormente citato, i maneggioni della politica. Lo trovate maggiormente citato oggi sui giornali. E tra l'altro, che cosa trovate sui giornali soprattutto? Vabbè, sono tutti riposizionamenti in vista del 14 che succederà. Io non so quanto questo possa intercettare l'interesse delle persone comuni, ma certo troverete molte interviste di politici che, insomma, stanno cercando di capire come voteranno. È il momento della partita a scacchi, e sicuramente ci saranno anche delle frasi e dei toni che si alzeranno da qui al 14. Sapete come Casini ha risposto, per esempio, alla vicenda Berlusconi? Berlusconi, che ha attaccato sia Fini sia lo stesso Casini, definito uno che ha un solo progetto politico: fare fuori Berlusconi. La replica di Casini, questo per vedere i toni, è: se Berlusconi incassasse la fiducia il 14, restasse a galla anche per un solo voto, bisognerebbe chiamare il 118. Questa è la risposta di Casini. E allora qualche intervista qua e là, perché le interviste, la politica lunedì si anima sui giornali soprattutto con qualche intervista. Intanto parla il Corriere della Sera Marco Pannella. Sapete che i radicali hanno sei parlamentari, sono stati eletti nel Partito Democratico, ma questi parlamentari ora potrebbero risultare decisivi. E Pannella, da gran navigatore, gran furbone della politica, dice: deciderò all'ultimo minuto. In un'intervista a Maurizio Caprara, pagina 10 e 11 del Corriere: ho incontrato nei giorni scorsi Ignazio La Russa, devo vedere Bersani, e per dialoghi sinceri, assolutamente senza alcuna trattativa. Berlusconi si è stancato di perseguire un obiettivo. Da anni pubblicamente ho auspicato di tornare a parlarci, ma continuerò a provarci. Lui ha sempre rifiutato. Troppi disastri che avrei potuto aiutarlo a scongiurare, ma ora sembrano irreparabili. E comunque Pannella, vedete cosa dice: fino alla fine vedremo che votare, fino all'ultimo minuto utile, anche durante le votazioni. Cercheremo di tenere presente il contesto per ridurre l'intollerabile, l'infame, liberi fino alla fine di valutare. Insomma, niente trattativa. Coerenti nel ritenere necessario e utile a tutti il dialogo. Certo, poi Pannella dice: su che cosa potreste votare la fiducia? Eccolo qui Pannella. Ad esempio sulla giustizia e le carceri denunciamo una situazione gravissima. Si tratta ormai di spaventosi nuclei di Shoah, vere metastasi neonaziste nella democrazia reale italiana. Le risposte loro sono sempre o leghiste o dipietriste. Ho incontrato La Russa, vedrò Bersani, cercherò di convincerli. E poi alla domanda di Caprara: ma lei considera compatibile con l'elettorato radicale Berlusconi, che sostiene sia meglio preferire le belle donne all'essere omosessuali? Le prendiamo come battute di un qualsiasi altro poveraccio. risponde Pannella. Se vuole può chiamarci come i suoi amici padani, frocio, piuttosto che gay, omosessuale. Ora dice agli studenti, meglio studiare che manifestare. Aveva proprio ragione Veronica ad ammonirlo sugli esempi e i valori che si ripropongono ai giovani e ai figli. Ma sembra che fosse inutile. Insomma, sentite Pannella anche che tratta Berlusconi, come dire, no? Con un fare disinvolto, d'altronde è forte di questi 6 voti, ha capito dal gran furbone della politica che questi 6 voti li può far pesare, no? E quindi tratta anche Berlusconi così. Sentite anche l'ultima domanda. Lei è stato per decenni il politico più disubbidiente, ma quale effetto le fa sapere che il capo del governo organizza cene che la diplomazia americana definisce festini selvaggi? Nessuno, risponde Pannella. Comunque c'è un detto popolare, se un adulto si stanca della sua vita, se ne va a puttane. Eccolo qua, Marco Pannella. E allora, maneggioni della politica, Fini e Casini, così li ha definiti Berlusconi, c'è Italo, ecco, vedete, di pari passo con i toni sempre più aspri ci saranno anche i tentativi di trattativa dell'ultimo momento. Per esempio Italo Bocchino, uno che fino a questo momento è sempre stato il finiano più duro, fa un'intervista a Repubblica, è possibile un bis del Cavaliere, ma deve dimettersi prima del 14. Il premier è in piena tempesta emotiva. Inizia così l'intervista di Italo Bocchino a Giovanna Casadio, a pagina 7 di Repubblica. Poi attacca il cosiddetto metodo Belpietro. Sapete che Libero ha pubblicato in prima pagina le foto e anche le mail dei quelli che vengono definiti i traditori, i finiani. Guardate quelli che tradiranno Berlusconi, invitando anche a scrivere a queste persone. Bocchino dice, io ero il primo della lista, ho ricevuto un 600 mail, 2/3 di insulti e minacce, il resto di persone indignate per questa operazione, numeri esigui in definitiva. Cosa si aspetta da questa settimana di passione? Beh, il posizionamento è finito, da una parte ci sono 317 deputati per la sfiducia, 308-309 dall'altra. Insomma, insiste in quello che Berlusconi ha definito un bluff, dire abbiamo 317 deputati. La partita vera è quella però del dopo, del 15 dicembre, e dice Italo Bocchino, Berlusconi stesso può precludersi il bis se si fa sfiduciare, se invece si dimette prima può invece rimanere. E così sempre nell'ambito della trattativa Fabrizio Cicchitto, il capogruppo del PDL alla Camera, fa un'intervista a La Stampa, pagina 5, con Ugo Magri, e dice io non sono né falco né colomba, ma certo apre uno spiraglio, cambiamo la legge elettorale. Il punto discriminante è mantenere il premio di maggioranza, perché significa bipolarismo, significa possibilità per i cittadini di scegliersi il premier, ma visto come sono messe le cose, Fini e Casini sarebbero disposti a rinunciare al loro attuale anti-berlusconismo? Così chiede Fabrizio Cicchitto. Chi lo sa, sta di fatto che la politica è tutta qui, insomma. Attendetevi una settimana di scontri, prendetevi le vacanze se riuscite e saltate la politica dai giornali se potete, però se no, se invece la leggete, troverete questi toni sempre più duri e sempre meno concilianti in vista del 14. Tra l'altro oggi Giuliano Ferrara fa il suo tradizionale commento sul Foglio del lunedì. Berlusconi non si tocca, l'unico slogan di sinistra. Oggi mi travesto da Francesco Piccolo, lo scrittore amabile di sinistra, sceneggiatore di Moretti e Saviano, columnist dell'Unità. Questo è l'esordio dell'articolo di Ferrara. Quindi fate conto di non leggere il Foglio di quei burloni della Berlusconia, ma il giornale è assai accigliato di Concita De Gregorio. Ed ecco allora che si incarna in Francesco Piccolo Ferrara e scrive: attualmente, cari compagni, la nostra linea si riduce alla formula TTB, tutto tranne Berlusconi. È una tentazione notevole questa parola d'ordine, Berlusconi per noi è un incubo. Ha disegnato con le sue vittorie un profilo del paese che ci fa orrore, ha buttato fuori Casini senza complimenti, ha buttato fuori Fini, respinge il nostro attacco, quello dei magistrati, quello diretto e giacobino del gruppo Espresso. Il fatto è che la formula TTB, tutto tranne Berlusconi, ci mette in condizione di minorità verso un Casini, uno che ha servito Berlusconi, suo salvatore. In minorità verso Montezemolo, un tanto bravo ragazzo che dovrebbe far politica con la filantropia e la sponsorship di cause sociali giuste e profumate. Inoltre, se andremo fino in fondo nel tentativo di affossare Berlusconi con mezzi non elettorali e subdoli politicamente, rischiamo di mettere in discussione la figura del primo capo di Stato ex comunista, il galantuomo Napolitano. Infine, con queste formule, il TTB, non si fanno programmi socialmente significativi, non ci si batte per obiettivi popolari. Propongo, compagni, di cambiare formula. Berlusconi non si tocca. Ci penseremo noi eventualmente a vincere le prossime elezioni, che poi sarebbe il nostro mestiere. Questo Giuliano Ferrara oggi in prima pagina del Foglio, mentre il giornale fa un attacco in prima pagina e poi a pagina 3 a Antonio Ingroia, procuratore di Palermo, colui che insomma è nelle varie inchieste anche chiave, per esempio quelle del Papello, quelle delle rivelazioni del figlio di Ciancimino. Bunga bunga del PM anti Berlusconi, questo è il titolo di prima pagina del giornale. Ingroia indaga sul Cavaliere, ma venerdì parteciperà a uno show dell'Italia dei Valori contro di lui. È Stefano Zurlo che ne parla a pagina 3. Il bunga bunga del PM che indaga sul Cavaliere parteciperà appunto venerdì 10 dicembre a questa manifestazione dal titolo Il dittatore del Bunga Bunga, una manifestazione voluta dall'Italia dei Valori con Sergio Rizzo del Corriere, Antonio Di Pietro, Marco Travaglio, David Parenzo, nostro David Parenzo, Bruno Tinti, magistrato, e anche Antonio Ingroia. Stefano Zurlo si chiede: ma come? È la toga che ha accusato dell'utile, la toga che indaga sul Cavaliere, la toga del papello di famoso papello della mafia, e poi fa una certa impressione scoprire che di mattina e di giorno indaga e alla sera gioca tra satira, musica, giornalismo in una manifestazione dell'Italia dei Valori. Il bunga bunga del PM che indaga sul Cavaliere. Abbandoniamo la politica oggi. Per la verità, su tutti i giornali trovate moltissimo di cronaca, purtroppo cronaca nera. In primo piano soprattutto c'è la vicenda di Yara Gambiraj, è stato fermato questo marocchino di cui non si sanno le generalità, peraltro lui nega assolutamente. Ci sarebbero anche due italiani coinvolti che gli inquirenti stanno cercando. C'è anche tutta la vicenda che chiaramente si legge dai giornali una situazione, diciamo, di calma apparente, perché sono apparsi dei primi cartelli come i marocchini fuori da Bergamo, un altro cartello occhio per occhio, dente per dente, via gli immigrati. Piero Colaprico ne parla a pagina 4 di Repubblica, con il sindaco che dice: qui non ci saranno caccia all'uomo, non ci saranno show. Per la verità però c'è già un'intervista a Matteo Salvini, eurodeputato della Lega, a pagina 4 di Repubblica, che dice: troppi stranieri impuniti, ecco i risultati. Ormai il legame tra l'immigrazione e la violenza si legge tutti i giorni nei mattinali delle questure. Questo è il tema, diciamo, che viene già sviluppato con una serie di interviste. Per esempio La Stampa fa l'intervista a Marzio Barbagli, che è uno dei sociologi che studia anche il rapporto, che studia l'immigrazione, che studia anche il rapporto tra criminalità e immigrazione. Lo straniero cattivo è propaganda politica. Il sociologo Barbagli, a pagina 2, intervistato da Francesca Paci: i dati non dipendono dal razzismo, sono dati, ci dicono che sebbene in Italia il numero di omicidi sia notevolmente calato, passando dai quasi 2000 all'anno nel 92 ai 620 attuali, la quota di immigrati condannati è molto elevata rispetto al peso degli immigrati stessi. Parliamo di un 35%, che nelle regioni del nord sfiora il 40%. 9 su 10 sono uomini, così come per gli italiani. Però, a partire da questo dato, Barbagli dice, c'è da aggiungere che di solito gli stranieri ammazzano altri stranieri, spesso della stessa nazionalità, nell'indifferenza mediatica. Se invece la vittima è un nostro connazionale, l'impatto è assai più forte. Come interpreta la corrispondenza tra immigrazione e devianza, dice Barbagli, il numero di reati tra gli immigrati è alto anche in altri paesi. Per quanto riguarda l'Italia, le ragioni sono diverse. La prima è legata agli irregolari, più devianti, e alla nostra difficoltà nel gestire i flussi migratori. La seconda riguarda il grado di integrazione. Chi vive in un contesto di controllo familiare o comunitario delinque più difficilmente di uno senza rete. In ogni caso, dice, quelle scritte occhio per occhio, indubbiamente la reazione è aggravata dal fatto che si sospetta di un immigrato, soprattutto trattandosi di una zona con una quota della popolazione non molto simpatizzante per gli stranieri. Questa è la considerazione iniziale da cui parte Barbagli. Tra l'altro c'è il racconto un po' ovunque, per esempio sulla stampa, pagina 3, di come è stata fermata questa persona. È stato fatto un vero e proprio blitz perché aveva preso una nave da Genova a Tangeri, nave che era già in acque internazionali, per cui il comandante britannico non poteva neanche essere fermato. E allora che cosa hanno fatto? Due motovedette della guardia costiera hanno abbordato la nave in mare internazionale, i carabinieri sono saliti di nascosto con una scaletta di corda. Tra l'altro ci sono stati dei problemi perché a bordo c'era solo una foto che avevano i carabinieri, una foto ricevuta sul cellulare via mail, e c'erano a bordo oltre 400 persone, praticamente tutte marocchine, dunque non è stata facile neanche l'identificazione. Poi alla fine ce l'hanno fatta e sono riusciti a riportarlo praticamente in Italia, quando era già in acque internazionali questa persona. Su di lui pende soprattutto questa intercettazione. È stato sentito al telefono a dire, poco prima di pregare: Allah mi perdoni, non l'ho uccisa io. E quindi questa è la cosa più forte che contro di lui ovviamente adesso gli inquirenti possono utilizzare. Ma chiaramente la situazione non è ancora del tutto chiarita sui giornali, anche su Il Giornale. Il paese ora esplode di rabbia, fuori marocchini da Bergamo, ma il sindaco dice: casi isolati, mi dissocio. Immigrato drogato e senza patente uccide 7 ciclisti. L'abbiamo sentito anche nel giornale radio, un'altra notizia di cronaca davvero terribile, che tra l'altro, coincidenza vuole, coinvolge anche in questo caso un cittadino marocchino, come nella vicenda della scomparsa di Yara Gambirasio. Giulia Veltri ne scrive da Lamezia Terme per La Stampa: corpi immobili a terra e sanguinanti, bici deformate e schizzate lontano anche di 10 metri, un'auto fumante messa di traverso sulla carreggiata, un uomo che cammina tremante sul ciglio della strada stringendo la mano di un bambino. Questa è la scena che si è trovato di fronte ieri mattina a mezzogiorno Clemente Folinazzo, il primo ad arrivare sul luogo del terribile incidente avvenuto in località Marinella, Santa Eufemia di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Una vera e propria strage, 7 morti, 3 feriti gravi, falciati in bici da un'auto guidata da un uomo risultato positivo alla cannabis, senza patente, di origine marocchina. Sembrava che fosse scoppiata una bomba. Alcuni automobilisti impietriti sono andati via e non ce l'hanno fatta a fermarsi. Davvero. Ci sono anche delle foto molto terribili. Al conducente era stato tra l'altro ritirato il documento di guida 7 mesi fa, quando invase l'altra corsia è stato fermato. Il sottosegretario Giovanardi dice: ora tutti gli imbecilli che fanno le differenze tra le droghe pesanti e leggere tacciano. Una vicenda davvero incredibile e che, ripeto, coinvolge in questo caso ancora uno straniero, tanto che Luigi Manconi, sociologo, oggi scrive il tradizionale editoriale a pagina 2 dell'Unità. Perché sapete, avete sentito anche l'intervista a Marzio Barbagli, avete sentito anche a Brembate quello che sta succedendo, qualche dichiarazione. Insomma, il tema di immigrati e criminalità torna prepotentemente alla ribalta con queste due notizie di cronaca. E allora Luigi Manconi scrive, dice: gli immigrati delinquono più degli italiani. Falso. Tra gli immigrati regolari il tasso di criminalità è pari a quello registrato tra i cittadini italiani. Nella fascia d'età 24-50 anni la frequenza dei delitti è minore all'interno della popolazione straniera. Dice: gli stranieri violentano le nostre donne. Falso. Le nostre donne sono violentate dai nostri uomini, da italiani, come confermato dall'Istat, ed è provato che il 94% di quelle violenze avviene in ambito familiare, parentale, amicale. Ma bastano questi dati e bastano le argomentazioni obiettive a disinnescare l'intolleranza etnica? Ecco, da qui parte il ragionamento di Luigi Manconi, perché chiaramente è chiaro che è ripartito, insomma, questa tematica portata alla luce da questi fatti di cronaca del rapporto tra criminalità e stranieri. Tra l'altro anche noi parliamo di sicurezza stradale, di alcol, di sicurezza stradale proprio all'indomani di questa tragedia, perché sono sempre più i comuni, e questo è il tema del nostro sondaggio, che fanno scontare con accordi con i tribunali, invece che le sanzioni penali, i lavori socialmente utili alle persone che vengono fermate con un tasso alcolico superiore al consentito dalla legge. Che ne pensate? Secondo voi è una giusta riparazione. Votate su radio24.it, ne parleremo alle 8.30. Io voglio concludere con la tradizionale ricerca annuale del Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che mi sono perso, eppure non è neanche piccolo di fatture, di colore diverso. Eccolo qua, Bolzano e Trento unite in vetta, è la annuale inchiesta, classifica del Sole 24 Ore che analizza 36 indicatori statistici per certificare la qualità della vita nelle province italiane. E allora eccola qui la classifica, che la trovate, io ve ne do qualche posizione, poi ovviamente vi dovete comprare il Sole 24 Ore e vi leggete tutto l'inserto di 12 pagine con anche tutti indicatori molto interessanti. Per esempio, lo sapete che Oristano va al titolo di oasi della tranquillità, è la migliore negli indici su truffe e microcriminalità, Oristano. Beh, ma la classifica generale, quella che mette al primo posto Bolzano e Trento, dunque le due province che vincono, tanto che Nino Ciravegna a pagina 3 del Sole ci fa l'articolo l'eterno duello sulla montagna della felicità. Al terzo posto Sondrio, quarta Trieste, quinta Siena, 6 Aosta, settima Gorizia, ottava Bologna, nona Oristano, decima Belluno. Mi fermo qui perché sono 107 le province, l'ultima Napoli, il tono vedete diventa un po' più greve. Ultimo posto, 106esimo posto, Foggia, 105 Caserta, 104, come si dice così, 104, 104 Trapani, 103 Reggio Calabria. E vabbè, mi fermo, ho letto le prime 5 e le ultime 5, poi leggetevi il Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Io credo mi debba fermare qui. Sì, Peter fa un lieve cenno del viso, vuol dire mi devo fermare qui. E allora votate il sondaggio su radio24.it, ne parleremo poi alle 8.30. Ora la linea va, come di consueto, al GR.